as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qui, oggi del pane e rose. Questa puntata è dedicata, è la seconda puntata che noi facciamo dedicata al contratto nazionale dei metalmeccanici. Abbiamo sentito l'anno scorso ormai una Palombrini che ci ha, ha spiegato le ragioni del no, in questo momento nelle fabbriche si sta votando, ormai le votazioni sono già andate, sono un sacco le aziende che hanno già votato, purtroppo non siamo riusciti a fare la prima puntata per il sì. La facciamo quest'anno, ci sono ancora molte aziende importanti che stanno votando. Io invito tutti quanti, a chi non avesse ascoltato la puntata per il 9, per i meccanici interessati, può andare sulla nostra pagina podcast Il Pane e Rose, trovate su Facebook, sia sul sito Il Pane e Rose oppure sulla mia pagina, chi mi conosce, e ascoltatela. Questa puntata è dedicata alle ragioni del sì, abbiamo intervistato Pasquale Di Domenico, che fa parte della segreteria di Bologna, e insomma sentirete lui che vi spiegherà i motivi perché hanno fatto in modo che la FIOM siglasse questa intesa d'accordo. E niente, oggi è una puntata un po' particolare perché non possiamo non ricordare Andrea Bole, nostro compagno di Città Fujiko. Lui aveva una trasmissione che noi del Pane Rose amavamo, seguivamo, eravamo i suoi fan scatenati, perché lui metteva della musica della working class, si rifaceva alla musica della working class inglese, ma non solo, tutto il mondo Oi, il mondo dei Redskin, il mondo Rockers. Insomma, Andrea ci mancherà tantissimo, una disgrazia. Questa puntata della musica è dedicata a lui. Ci faceva ballare, ci faceva danzare, organizzava dei concerti bellissimi. E niente, Andrea è morto mentre lavorava, mentre andava al lavoro, e questo per noi è ancora più allucinante e ci rende così. Però Andrea non ti dimenticheremo mai, tu hai tanti compagni e per questo non morirai mai. Ci sentiamo per le conclusioni. Law and the law one. I need it more. Allora, ciao Pasquale, siamo qui oggi con te. Questa è la seconda puntata dedicata al contratto nazionale dei metalmeccanici che è stato firmato l'anno scorso. In questo momento ci sono le votazioni in tutte le fabbriche d'Italia, c'è qualche fabbrica che ha già votato, noi dobbiamo ancora votare in Bonfiglioli, altre fabbriche, comunque a fine febbraio dovranno essere tutto concluso e poi si andrà a vedere insomma l'esito di questo referendum. Io sono qui con te perché tu sei tra quelli che ha votato sì a questo accordo e tra i fautori del sì, tu fai parte della segreteria di Bologna. Vogliamo da te una spiegazione, secondo te questo contratto, tutte le ragioni perché bisogna votare sì e l'importanza di questo contratto in questo momento storico per noi metalmeccanici. Allora, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Intanto il fatto che si voti su un rinnovo di un contratto nazionale è un elemento di democrazia importantissimo e questo ci tengo a sottolinearlo proprio in un momento come questo in cui la democrazia è sotto attacco a livello nazionale e internazionale. Riuscire a far praticare la democrazia dentro i luoghi di lavoro è un elemento di centralità della nostra azione sindacale imprescindibile in questo momento. Si svolgerà nell'assemblea in tutti i luoghi di lavoro e noi quando viene sottoscritta un'ipotesi di accordo chiaramente riteniamo che quell'ipotesi di accordo sia la migliore sottoscrivibile alle condizioni date. Le condizioni date sono chiaramente determinate da fattori che non dipendono dalla nostra volontà, che riguardano chiaramente il contesto economico, le posizioni di forza che le aziende hanno maturato anche in relazione all'appoggio incondizionato che hanno ricevuto dal governo a livello nazionale e dipendono da cose che invece possiamo mettere in campo noi, cioè dai rapporti di forza che siamo in grado di praticare, di mettere in campo. E in questo anno abbiamo dimostrato che nelle fabbriche metalmeccaniche siamo in grado e sono in grado le lavoratrici e i lavoratori di opporre il rapporto di forza per sbilanciare a proprio favore l'andamento della trattativa. Noi partivamo da una situazione per la quale le aziende si erano completamente rifiutate di aprire una discussione sulla trattativa sul rinnovo del nostro contratto nazionale, che ricordo riguarda oltre 1,5 milioni di lavoratrici e lavoratori, e lo facevano partendo dalla presunzione del fatto che negli scorsi anni un lavoratore metalmeccanico, dal loro punto di vista, aveva già ricevuto più di quello che avrebbe dovuto in relazione anche all'andamento dei salari negli altri settori e in relazione anche al fatto, per esempio, gli aumenti salariali che il governo ha imposto nel settore pubblico. Un lavoratore metalmeccanico si presentava al rinnovo di questo contratto avendo recuperato pienamente l'inflazione misurata dall'indice IPCANEI con un aumento che nello scorso quadriennio è stato di circa 320 euro al mese per un quinto livello. Per le aziende questo era abbastanza, noi abbiamo presentato una piattaforma ambiziosa che invece provava anche sul tema del salario a andare oltre quello che già si era consolidato e aprire il campo a un tema di redistribuzione della ricchezza che negli scorsi anni invece le aziende hanno comunque costruito attraverso il lavoro della metalmeccanica e dei metalmeccanici. Per cui intanto il tema salariale, che è quello sicuramente centrale all'interno di una discussione, è quello sul quale noi siamo riusciti, di fronte a un attacco senza precedenti ricevuto da parte delle aziende, non solo a consolidare il modello, cioè a fare in modo che un lavoratore metalmeccanico abbia la tranquillità anche per i prossimi 3 anni del fatto che gli aumenti salariali saranno legati all'andamento dell'inflazione e quindi che la clausola di garanzia che c'è nel nostro contratto nazionale, che ha un funzionamento molto simile a quello che c'era previsto fino a qualche decennio fa con la scala mobile, sia stato confermato. E quindi il modello è stato difeso, non abbiamo rifiutato che le aziende lo mettessero in discussione e oltre alla difesa del modello c'è stata comunque la forza di imporre una cifra salariale minima che un lavoratore metalmeccanico sa che nei prossimi 3 anni gli verrà riconosciuta, che appunto è pari a 205 euro al quinto livello, che in base alle previsioni dell'inflazione ad oggi significa circa 47 euro in più rispetto all'inflazione prevista per i prossimi 3 anni. Per cui ad oggi un lavoratore metalmeccanico ha la certezza che nel caso in cui le condizioni a livello di inflazione dovessero cambiare, anche il proprio salario verrà adeguato, i propri aumenti salariali verranno adeguati all'inflazione, ma che se invece l'andamento dell'inflazione venisse confermato, addirittura, e noi questo speriamo, sia calante nei prossimi anni, riceverà comunque un aumento minimo di 205 euro che ad oggi consentono di andare oltre l'inflazione di circa 50 euro. Ma quindi il contratto nazionale non è fatto solo di salario e in questa ipotesi di accordo sono l'altro elemento di forza, che siamo riusciti a costringere le aziende a trattare di tutti i punti che avevamo previsto e all'interno della piattaforma, anch'essa votata e poi supportata con gli scioperi dalle lavoratrici e lavoratori metalmeccanici. Su questo provo a fare un passaggio di merito su due temi che secondo me sono particolarmente rilevanti e che rischia sempre di essere messi in secondo piano e che invece dentro questa ipotesi di accordo hanno trovato un loro spazio importante. Il primo è il tema della precarietà. Cioè, noi ci troviamo di fronte al fatto che non solo veniamo da 30 anni di smantellamento delle norme a tutela dei diritti, della stabilità delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche da un uso sempre più spregiudicato che le aziende hanno fatto anche nel settore metalmeccanico degli strumenti di lavoro, di contratti atipici che e precari, che purtroppo la normativa gli ha messo a disposizione. Per la prima volta all'interno di un contratto nazionale dei metalmeccanici, non solo sono state regolate le motivazioni per le quali un'azienda può ricorrere all'utilizzo dei contratti a termine, quindi togliendo quella fastidiosissima e odiosa possibilità che il governo Meloni aveva dato alle aziende attraverso il decreto 1 maggio di stabilire in via anche direttamente col lavoratore o attraverso accordi aziendali o territoriali le causali che potessero determinare l'utilizzo di contratti a termine. Quindi, averli definiti all'interno del contratto nazionale, tutela tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori metalmeccanici anche dalla possibilità che le aziende, azienda per azienda, addirittura nel rapporto individuale con i singoli lavoratori, utilizzino la forza che hanno per imporre motivazioni e possibilità di utilizzo e di estensione dell'utilizzo dei contratti a termine. Ma oltre a questa regolazione dell'utilizzo dei contratti a termine, l'elemento, diciamo, di principale novità è che si è stabilito che se le aziende determinano la necessità di utilizzare forme di lavoro precario oltre i primi 12 mesi, quindi chiedono di poter attivare le causali specificate nel contratto nazionale, hanno poi l'obbligo di assumere almeno il 20% della manodopera che hanno utilizzato l'anno precedente attraverso appunto contratti a tempo determinato. Quindi un elemento di necessità di stabilizzazione che dal nostro punto di vista è particolarmente importante, non solo perché dà una risposta ha un'esigenza individuale del lavoratore di stabilità e di costruire un percorso lavorativo e quindi di vita e familiare stabile attraverso la conversione del proprio contratto a tempo indeterminato, ma che obbliga anche le aziende a non utilizzare forme di lavoro atipico per costruire elementi di flessibilità che in questi anni hanno indebolito l'organizzazione produttiva delle aziende, hanno anche, come dire, reso meno vantaggioso per loro il consolidamento di una certa struttura e organizzazione aziendale. Questo è quello che facciamo anche in tantissime vertenze aziendali. Quando apriamo le vertenze per la stabilizzazione nelle aziende, lo facciamo sicuramente per tutelare i diritti di quei lavoratori che oggi vivono una condizione di precarietà, ma anche per obbligare le aziende a continuare a investire nel territorio, a ingrandire la propria organizzazione aziendale e a fare investimenti sulle nostri stabilimenti, cosa appunto assolutamente non scontata nel momento in cui viviamo oggi, nel quale invece sono tante le aziende che invece stanno fuggendo dal nostro territorio, sia a causa della guerra commerciale inaugurata da Trump, sia a causa delle tensioni internazionali, ma anche perché appunto negli anni non hanno investito dentro gli stabilimenti italiani. Oggi ci troviamo in una situazione particolarmente drammatica anche rispetto alla capacità stessa delle nostre aziende industriali di rispondere alle esigenze tecnologiche, produttive e di innovazione che invece il settore richiede. Il secondo elemento che secondo me dà una risposta anche un po' inedita, è che il fatto che dentro il contratto si è iniziato a discutere di appalti. Noi già nel contratto nazionale abbiamo un elemento che dal mio punto di vista ha consentito di salvare la tenuta del nostro settore industriale, cioè nel contratto dei metalmeccanici, e questo penso sia un unicum, è previsto esplicitamente che un'azienda metalmeccanica non può dare in appalto le attività tipiche della produzione dell'azienda. Per esempio qui in Bonfioli riduttori si fabbricano appunto riduttori, motoriduttori. La Bonfioli per il contratto nazionale non può dare in appalto l'assemblaggio e la produzione dei motoriduttori, ma solo elementi appunto collaterali alla produzione. Questo, se lo paragoniamo a quello che banalmente succede nel settore della moda, stiamo vedendo oggi anche nelle cronache dei giornali che disastro c'è in termini di diritti dei lavoratori, è totalmente differente. Un grande marchio della moda può appaltare completamente la produzione del capo anche aziende che appunto non rispettano i diritti dei lavoratori, che applicano condizioni barbare ai propri dipendenti, e poi comunque farlo passare come un prodotto di alta moda o di made in Italy e venderlo a prezzi astronomici. Nel metalmeccanico questa cosa non è possibile grazie al contratto nazionale, e questo è stato un elemento di tenuta fondamentale per il nostro settore. Si sta provando a fare dei passi in più per provare a intervenire anche rispetto alla tutela che poi i lavoratori che invece lavorano in appalto, ma appunto in attività collaterale della produzione, dal nostro punto di vista devono avere, ed è una responsabilità nostra che abbiano, una responsabilità di chi rappresenta i lavoratori delle aziende che danno in appalto le lavorazioni, occuparsi del fatto che i lavoratori in appalto abbiano condizioni di lavoro degno e livelli salariali degni. E su questo, quindi, in questo contratto si è aperto uno scontro molto duro che dovremo proseguire sicuramente nell'azione dei contratti aziendali, ma che ha aperto delle possibilità attraverso la previsione del fatto che le aziende sono in questo momento obbligate a fornire alle RSU e alle organizzazioni territoriali tutta una serie di informazioni rispetto agli appalti continuativi che hanno in essere, a favorire il fatto che in caso di cambio appalto ci sia una comunicazione tra le aziende per evitare che ci siano problemi di natura occupazionale, e soprattutto iniziare a riconoscere che quei lavoratori che lavorano in appalto dentro un sito produttivo devono avere dei diritti che la società appaltatrice deve riconoscere, a partire dalla possibilità di utilizzare l'infermeria, alla possibilità di valutare l'utilizzo della mensa, che per noi sono piccole cose ma insufficienti, che devono essere rafforzate nella contrattazione aziendale, ma che il contratto nazionale, su cui il contratto nazionale apre uno spiraglio importante, che noi dobbiamo avere la forza dentro le singole aziende con le nostre RSU di invece praticare per garantire i diritti e le tutele dei lavoratori che lavorano oggi in appalto e che sono quelli più soggetti purtroppo a una precarietà di natura esistenziale, perché un cambio appalto è sempre una minaccia non solo di perdita di posto di lavoro, ma anche alle volte di peggioramento delle condizioni di lavoro, di peggioramento anche delle condizioni salariali, se non c'è un lavoro sindacale attento che coinvolge tutti i lavoratori, compresi ovviamente quelle della società appaltatrice. Sembrano banalità queste, ma per chi, come dire, è a contatto e vive in realtà nelle aziende, nelle fabbriche, non lo è. Cioè, costruire solidarietà tra situazioni diverse e condizioni diverse non è mai facile. La solidarietà tra uguali è quella più facile da costruire. La solidarietà tra diversi e tra persone, lavoratori che subiscono e hanno situazioni alle volte molto differenti, è molto più complicata, ma questo per noi è uno spazio assolutamente imprescindibile da praticare nel prossimo futuro, e questo contratto ci apre la possibilità di poterlo fare. La domanda che ti facevo, poi l'ultima domanda che ti faccio, non hai, sul contratto c'era una forte aspettativa per quanto riguarda la riduzione d'orario. Volevo sapere su questo aspetto, come è andata la trattativa, cosa si è portato a casa, perché su questo ci sono stati un po' di malumori, perché c'era un'aspettativa da parte di alcuni lavoratori, e altri che sul salario, oltre che sul salario, c'era anche quest'altro argomento. Assolutamente, diciamo che l'aspettativa è anche legata al fatto che negli ultimi anni, a Bologna vediamo una tradizione lunga, ma negli ultimi anni anche nel resto d'Italia si è iniziato a costruire dei ragionamenti nelle aziende anche importanti per arrivare a forme di riduzione d'orario, che chiaramente fanno i conti con le diverse organizzazioni produttive, con le diverse modalità di gestione della produzione e dell'organizzazione del lavoro, ma che hanno in questi anni costruito diverse forme di sperimentazione. In alcune aziende si è discusso di settimana corta, in altre la riduzione dell'orario di lavoro sui turni, eccetera. Ed è un'aspettativa del tutto legittima. Ci aspettavamo sicuramente che anche la controparte, quindi anche le aziende, avessero interesse a affrontare questa discussione in maniera da individuare anche a livello nazionale delle possibili strategie e linee guida da poter poi declinare a livello aziendale. Quello che ad oggi, come dire, non si è concretizzato ancora, ma nell'ipotesi di accordo è previsto che da domani parta il lavoro di una commissione nazionale che avrà proprio l'incarico di valutare tutte le sperimentazioni contrattuali che si sono maturate e consolidate negli ultimi anni, per capire quali possono essere le modalità in relazione appunto ai diversi contesti produttivi e ai diversi tipi di organizzazione aziendale per giungere a forme di riduzione d'orario. Qui a Bologna noi veniamo da una tradizione lunghissima di contrattazione aziendale sulla riduzione dell'orario di lavoro. Già negli anni 70-80 partirono i primi accordi di riduzione d'orario. Noi qui appunto parliamo dalla Bonfiglio dei riduttori, nella quale sono ormai 30 anni che sono stati istituiti dei turni di lavoro per i quali un lavoratore che è inserito nei turni in Bonfioli a il turno del mattino e del pomeriggio di 7 ore pagate 8, il turno della notte di 6 ore pagate 8, quindi diciamo la media settimanale di un lavoratore inserito a turno in Bonfioli è ben al di sotto anche delle 35 ore, che ad oggi sembra un miraggio in tante altre realtà aziendali. Da qualche settimana abbiamo concluso l'accordo anche nell'appalto di Lamborghini Snell, che è la logistica nella quale si è replicato il modello Lamborghini. Abbiamo fatto una puntata su questo. Assolutamente, con una forma di sperimentazione anche lì, di riduzione strutturale dell'orario di lavoro, con la settimana corta anche per tutti i lavoratori e lavoratrici della logistica impegnati nel sito di Sant'Agata. E questo penso che noi anche a livello aziendale abbiamo la necessità di continuare a praticare forme di sperimentazione e riduzione dell'orario, perché, su questo chiudo, diventa non solo un'esigenza appunto per migliorare la nostra qualità della vita, anche il nostro approccio al lavoro e ridimensionare il ruolo che il lavoro assume nelle nostre esistenze, ma diventa anche una necessità di natura produttiva per tutto il sistema. Noi stiamo andando incontro a una fase di enorme trasformazione tecnologica e digitale, ma anche a una fase purtroppo di enorme crisi, e noi dobbiamo porci l'interrogativo nelle singole aziende, ma se lo dovrebbe porre anche chi ci governa in questo momento, se questa crisi noi la vogliamo affrontare ancora una volta restringendo i diritti dei lavoratori, contraendo i redditi dei lavoratori, impoverendo i salari e consentendo alle aziende di utilizzare tutta la flessibilità che vogliono per poter rispondere a una fase di crisi verso la quale purtroppo ci stiamo avviando, oppure se possiamo individuare una strategia in cui il lavoro viene trasformato, viene redistribuito, e un modo per redistribuire e trasformare il lavoro può essere senza dubbio discutere di forme di riduzione d'orario per tutte e per tutti. Dunque sarà la battaglia del prossimo contratto? Sarà la battaglia che necessariamente nel prossimo futuro dovremo fare, ribadisco, non solo per in ottica offensiva, ma anche perché abbiamo da rispondere a una situazione di crisi industriale che questo governo ha tutto l'interesse a nascondere, ma che purtroppo chi lavora oggi nel mondo industriale vive sulla propria pelle, perché noi abbiamo discusso di aumenti salariali, ma qui tanti lavoratori invece avranno settimane di cassa integrazione davanti, e cassa integrazione significa perdita netta salariale, significa impoverimento salariale, significa incertezza sul futuro. Queste sono cose che magari nessuno interessa a raccontare, ma che invece purtroppo sono nella quotidianità di chi vive oggi nelle fabbriche metalmeccaniche italiane. Ok, ti ringrazio Pasquale, grazie della tua disponibilità. Grazie a tutti e a tutti. The Kid Are United, nessuno potrà dividerli, eh sì. Andrea Bole è morto, abbiamo detto nell'introduzione, il nostro compagno che era era collaborava a Radio Città Fujiko, era il nostro DJ preferito, questa canzone è dedicata a lui, che purtroppo non c'è più, è morto in un incidente, come detto nell'introduzione, mentre andava a lavorare, era un lavoratore come noi, un compagno, un comunista, era un militante della rete del comunista, era dell'USB, infatti il 10 febbraio ci sarà una manifestazione, in cui sabato c'è stata una bellissima iniziativa per lui, musicale anche. Radio Città Fujiko sta facendo alcune cose, io vi invito a seguire tutto quello che verrà organizzato per Andrea Bole. E insomma, importante, il 10 febbraio, ripeto, c'è questa manifestazione dell'USB, che era il suo sindacato, era un compagno veramente in gamba, ci mancherà tantissimo. E insomma, avete sentito quello che ha detto Pasquale, io non dico nient'altro, ogni lavoratore può ascoltarsi le ragioni del sì, le ragioni del no, sul nostro podcast, e poi farsi una ragione e votare di conseguenza. Molti hanno già votato, comunque gli argomenti ne riparleremo più in là, perché ci sono un sacco di cose che, come avete sentito anche da Pasquale, sono delle battaglie ancora da fare, da continuare, e noi andremo avanti con le nostre posizioni per migliorare sempre di più la classe operaia, e lo faremo per tutti i lavoratori italiani di tutto il mondo, perché noi siamo internazionalisti, e anche in nome dei compagni come Andrea, insomma, di via, che non ci sono più, ma come ho detto all'inizio, quando uno ha dei compagni non morirà mai, perché sarà sempre nei nostri cuori. Ciao Andrea,